L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. C'è qualcosa in cui i matematici non mettono il naso? Direi di no, perché la matematica è una specie di, come una pittura che puoi spalmare su tutto, anche addirittura sulle cose che non esistono, e poi dopo scopri che grazie alla matematica viene fuori qualcosa che può essere utile. È con noi a Darwin Roberto Natalini, intanto benvenuto. Grazie, salve. Lei è direttore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Come diceva Federico, i matematici sono finiti anche nelle autostrade, cioè non ad usufruire delle autostrade, ma a lavorarci dentro. Sì, diciamo, è un'esperienza che stiamo facendo da qualche anno con Autovie Venete, che appunto sono i gestori delle autostrade, quelle che vanno essenzialmente da Venezia a Trieste, e ci hanno proposto di aiutarli a monitorare lo stato della loro autostrada, come si poteva programmare meglio il traffico sull'autostrada. Ma in che modo la matematica può fare questo? Cioè, attraverso dei sensori, dei dati, delle misurazioni? Sì, sicuramente, diciamo, senza dati non si fa nulla. Loro avevano già impiantato su tutta quanta la rete dei sensori che permettevano di sapere quanti veicoli e di che tipologia passavano su ogni corsia dell'autostrada. Però questi dati da soli servono a poco. Noi siamo stati anche a Palmanova, dove c'è la centrale operativa di Autovie Venete, e ci sono queste stanze bellissime piene di monitor con queste telecamere, però su 200 e passa chilometri di autostrada avere anche 50 punti di osservazione non serve a nulla, e anche avere questi dati puntuali li rende un po' ciechi. Infatti loro spesso si accorgono che c'è stato un incidente o c'è una coda mezz'ora dopo, un'ora dopo di quando succede veramente. Questo è il problema, cioè uno in realtà vuole controllare, per esempio una cosa che possono fare è rallentare i camion in entrata dalla Slovenia, facciamo un esempio, oppure aprire il casello quando c'è troppa coda, rinunciamo a riscuotere il pedaggio, però almeno svuotiamo quel tratto di autostrada, ecco, o consigliare di uscire all'uscita a Palmanova, ecco, cose di questo genere. Ma mi scusi Natalini, ma com'è che si fa poi ad avvisare il camion e i camion, perché questa è un'attività puntuale? Ci sono anche, diciamo, avvisi tramite la radio, tramite i display sull'autostrada, però la cosa principale è proprio loro devono sapere cosa sta succedendo per poter reagire e prendere delle contromisure, e anche capire in anticipo quando fare degli interventi. Per esempio, se uno fa un cantiere, deve sapere il giorno in cui lo può mettere o non lo può mettere, deve poter prevedere quello che succederà. Come si fa? Intanto, non l'abbiamo detto, è real time, 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Assolutamente, infatti diciamo noi abbiamo sviluppato già da 15 anni dei modelli su rete che però non funzionavano in real time, funzionavano bene, erano i primi modelli diciamo che descrivevano le automobili come densità, non come singole automobili ma come un flusso di automobili sulla strada, perché questo permette di risparmiare molto calcolo. In realtà noi non abbiamo bisogno di sapere ogni singola macchinina dov'è, mentre invece è molto importante avere la lunghezza della coda, per esempio, che è una cosa macroscopica. Questo è possibile soltanto perché loro hanno dei sensori che in questo momento girano real time, ci danno i dati real time, e il nostro sistema gli proietta nel futuro, mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, quello che succederà. Ecco, questa è una cosa completamente nuova, non c'era nessun tratto autostradale. Quindi diciamo che l'obiettivo primario di questi modelli, di queste proiezioni, è senz'altro la gestione da parte del gestore dell'autostrada per appunto ottimizzare il flusso delle auto. E invece dal punto di vista nostro, del consumatore, di colui che insomma è sulla macchina, anche state pensando anche a questo, a farci avere dei feedback appunto su come comportarci, magari uscire al casello prima? Assolutamente, diciamo, i pannelli che vedete oggi sono molto grossolani, non hanno grandi informazioni. Se noi potessimo dire uscite adesso perché dopo non uscite più, perché aspettate un'ora in coda sull'autostrada, ecco, questa cosa fatta in tempo reale, poterla dare tempestivamente diventa cruciale. Avete già fatto questi esperimenti su quel tratto di autostrada, ma adesso state progredendo, cioè c'è anche una fase ulteriore di messa a punto e quindi di maggiore, come dire, estensione di questa applicazione. Poi le chiedo questo, ma si potrebbe mettere anche sull'autostrada del Sole, che sono 1000 chilometri? Allora, rispondo con ordine. Innanzitutto il nostro progetto è durato quasi 2 anni, abbiamo installato il sistema che adesso funziona in real time appunto a Palma Nova, dove c'è la centrale operativa, e devo dire che chiaramente non è perfetto, ossia come tutti i modelli soffre dei cambiamenti, no? Deve essere aggiornato continuamente, quindi i nostri interventi attuali che stiamo programmando per il futuro sono di migliorare la predizione. Oggi la predizione è buona, cioè le telecamere non vedono niente, noi sappiamo che ci sarà una coda, e questo ha stupito gli stessi tecnici di Autovia, che non si aspettavano un risultato così performante. Però tantissime cose sono a migliorare. Quanto all'estensione, allora, purtroppo la situazione favorevole del Veneto è che hanno questi gestori che gestiscono piccoli pezzi d'autostrada e quindi si possono permettere di fare investimenti tecnologici di alto livello. Fare 1000 chilometri di Autostrada del Sole non è un problema, è soltanto un problema di tempo, di soldi, di avere i sensori giusti messi nella posizione giusta, però diciamo dal punto di vista algoritmico è assolutamente sostenibile. Va bene, allora grazie mille Natalini e davvero buon lavoro. Grazie. Sì, credo che ce l'abbiamo tutti presente, quella sensazione che della coda, magari siamo anche in ansia perché aspettiamo di vedere un incidente e poi non succede niente e si va via lisci. Sì, oppure il contrario, stai andando liscio come l'olio e a un certo punto ti inchiodi e stai fermo più di mezz'ora. Vabbè, comunque per oggi è tutto, ciao Federico, ciao ascoltatori, il nostro appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 20.50. Ciao Chiara e un saluto a tutti e a tutte. Darwena. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.